E viratevi, viratevi, viratevi. Qui Alex Foti, è il 25 aprile, buona liberazione e resistenza a tutti. E niente, il 25 aprile è stranissimo, ovviamente. Siamo qui su radiovirus.org. Abbiamo cantato dal balcone Bella Ciao, prima la versione della Casa di Carta, poi la versione classica dei canti partigiani, anche Fischia il vento, in furia la bufera, il sol dell'avvenir e il vile fascismo che non deve mai tornare. Ma sappiamo che con Salvini impara la Lombardia è in agguato anche a Milano, medaglia d'oro della Resistenza, epicentro dell'insurrezione che 75 anni fa liberò il nord Italia dal nazifascismo. A partire dai quartieri di Milano Nord, da Niguarda, insorta il 23 aprile, dalla Bovisa il 24 aprile, poi il 25, i partigiani che sfilano in piazza Duomo. Niente, 3 giorni dopo. Mussolini fucilato e finisce il fascismo, evviva! Stamattina diversi antifascisti, compagni di ogni quartiere, hanno reso omaggio alle lapidi, che sono le lapide diffuse in tutti i quartieri periferici di Milano e centrali anche, che sono rimaste sguarnite. E quindi sono state decorate da disegni e poster. Qui c'è quello della Brigata Elia, la foto sul mio Twitter: combatti la paura, distruggi il fascismo. Brigata Elia. Niente, però abbiamo da riportare una brutta notizia. In via Padova c'è il video su Milano Today. Due compagne e un compagno sono stati malmenati dalla polizia mentre si recavano a pulire una lapide di un partigiano ucciso. Le ragazze sono state colpite con una violenza abnorme, l'uomo con i capelli bianchi è stato schiacciato a terra, una violenza incredibile nella giornata dell'antifascismo. Veramente viene da pensare che la quarantena è diventata la scusa per uno stato securitario. Dobbiamo riprenderci le strade, non esiste che le strade appartengono solo alle forze di polizia. Siamo in uno Stato democratico e lo Stato democratico ce lo siamo conquistato grazie alle brigate partigiane, i cui degni successori sono le brigate volontarie per l'emergenza. E niente, siamo qui ancora su radiovirus.org e commentiamo il mio feed. C'è una bellissima foto di un gruppo di giovani brigate con di ieri, che era il Global Strike, il Global Climate Strike di Fridays for Future del movimento Greta Thunberg. Ovviamente avremmo sperato che le piazze di tutte le città del mondo fossero piene ieri, come lo erano state già nel settembre e nel marzo dell'anno scorso. Poi anche molto bello quello di novembre, il Black Friday, bellissimo poster, uno dei migliori poster di ecoattivismo della storia. E niente, qui ancora dalla periferia nord, contro il virus del fascismo, resistenza e solidarietà, si moltiplicano in giro per i quartieri le testimonianze a favore dello spirito antifascista del 25 aprile. Qui c'è uno striscione rosso tenuto su dagli alberi che dice Resistenza 1945-2020. E qui dal resto d'Italia ho scritto una cosa in inglese: Italy Today on the 75th anniversary of the Partisan Insurrection which liberated Milan and other northern cities in 1945, putting an end to fascist dictatorship and Nazi occupation. 25 aprile, e c'è, per dare l'idea agli esteri dell'importanza del dibattito e dello spirito oggi, in piena era covidica, c'è un compagno evidente, un po' attempato con lo zuccotto, che dice: ci sono il torto e la ragione, la libertà e la tirannia. È un tricolore con una fascetta rossa. E un altro con la cravatta verde Lega che gli dice, un po' alla Feltri: lei è troppo divisivo. E quindi la destra non vuole che celebriamo degnamente il 25 aprile. Ma Mattarella sì, con una mascherina chirurgica tirata su fino agli occhiali, che quasi non si vedono gli occhi, all'altare della patria. Boh, non so perché non va a Porta San Paolo. Comunque, vabbè, con tutte le avieri e corazzieri. in mascherina a rendere omaggio ai caduti della Resistenza. E niente, su Radio 2 si può sentire sul conto Twitter l'annuncio radiofonico originale che proclama la liberazione 75 anni fa. Qui la prima del nuovo Corriere, perché si vede che il vecchio Corriere del 45 era compromesso col fascio. Comunque il nuovo Corriere non lo è, e anche quello di oggi si schiera dal punto di vista dell'antifascismo liberale, insomma, certo non il nostro, però comunque riconosce il valore della Resistenza. Almeno penso che su Giustizia e Libertà ci possiamo trovare più o meno tutti, magari non tutti sono per le Brigate Garibaldi, non tutti sono per le Brigate Matteotti, ancora meno ovviamente l'esercito Badogliano, ma che sfigati, ciao. Meno male che c'erano i partigiani veri, gli operai, c'erano i gappisti a Milano, Torino, loro sì che ci hanno liberato. Va bene, fra parentesi, mio nonno era un operaio alle munizioni, morto nel 1946 nella fabbrica di Baranzate. Lui lavorava nella fabbrica munizioni e di notte le sottraeva e le portava ai partigiani. Primo comunista di Senago, almeno così si dice nella leggenda. Dovrei andare a vedere gli archivi per vedere se è vero. Milano insorge contro i nazifascisti, è appunto la prima del 25 aprile 1945, l'ultimatum del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale degli Oppressori, al cui capo c'è Pertini. Arrendersi o perire. Chiarissimo, Pertini non ha fatto sconti a nessuno ed è quello che ha detto: fallo fuori al Mussolini, se no ti faccio fuori a te, al comandante Valerio, che ovviamente prontamente eseguì l'ordine. Allora, niente, Macron mette in galera una giovane donna che aveva osato stendere uno striscione che diceva Macronavirus, l'hanno portata, l'hanno detenuta, e così Twitter si è ribellato e Macronavirus è stata tendenza principale in Francia. Tiens Macron. Niente, qui c'è un'immagine di Pulp Librarian che fa vedere il famosissimo, cioè in verità oscurissimo, Quatron, cioè un carosello 8-track che ti garantisce ben 16 ore di party, cioè una coppia sul divano. Ok, e veniamo a May Day, Can't Pay, Won't Pay, Rent Strike, General Strike in America. A Torino, sciopero generale dei riders. In America, sciopero generale di Amazon, Instacart. Rocco, non mi toccare la tastiera, se no non riesco a scrollare il newsfeed. Sì, facciamola corta, perché poi faremo anche un altro, esatto, qui gli striscioni incriminati dai flic francesi, che diceva: soutien au personnel hospitalier, sostegno al personale ospedaliero, Macronavirus, a Cannes la fin, quando la fine del Macronavirus. Macronavirus impazza, o meglio il coronavirus, il Covid, impazza la Francia e subito dietro Spagna e Italia per morti e contagi. Niente, ma qui c'è una notizia di costume comunque interessante, che un uomo che ha fatto body shaming verso la sua fidanzata per convincerla a depilarsi è stato attaccato giustamente da sorelle, compagne, dicendo: io vorrei che a quello stronzo gli venisse depilato l'intero corpo. Ok, allora niente, l'INPS certifica che nelle province con le fabbriche aperte i picchi di contagio sono stati più alti, almeno del più 25%, e dice ironicamente la persona che ha ritwittato: buona fase 2, amen. Niente, qui ci sono i Red for Key Workers, appunto una protesta in camicia rossa che si orienta per i lavoratori chiavi, quelli che lavorano negli ospedali, quelli che fanno le consegne, quelli che sono essenziali alla riproduzione sociale. Non sono essenziali top manager e banchieri, ma la classe precaria. Qui c'è un appello accorato di AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, che dice: se veramente avessi un senso di urgenza di quanto sono dovuti presto i soldi, legislereste come se anche il vostro affitto fosse dovuto il primo di maggio. È incredibile che i soldi vadano alle big corporations, soprattutto nel Queens e nel Bronx, che sono fra i distretti più quelli che rappresentano i più colpiti dal Covid, non stanno arrivando i soldi alle persone e agli small businesses. Vabbè, la notizia mondiale allucinante che ha fatto dire a Calenda la fine dell'Occidente. Vabbè, la fine dell'Occidente si è verificata nel 2016, come dico nel mio piccolo libro General Theory of the Precariat. Purtroppo, vedendo ieri la conferenza stampa di Trump che raccomandava di iniettarsi il Clorox o l'Isol, cioè, that's really incredible. E niente, uno schizoide pazzo a capo dell'ex prima potenza, mentre la Cina si appresta a rimpiazzarla. Sì, Rocco punta contro Bakunin, riconosce uno simpatico, c'è un poster innovatore che lo rappresenta un po' come se fosse un portuale o un camionista, meglio un portuale, forse bene fra tutti e due, sono diesel entrambi. E niente, qui c'è la CGT Catalunya, che è anarca femminista, non è più rossa nera ma è viola nera, catalana, questo è Primer de Maig. Primer le nostre vides, prima le nostre vite, il comunicato della Catalunya è un poster di copy art con Michael Bakunin attualizzato. No, non mi rubare il mouse, non mi rubare il mouse, non mi rubare il mouse, dai, devo finire qua, un attimo, dai, ho quasi finito. Poi c'è anche CGT Barcelona con uno striscione capitalismo uguale extinzione. E niente, ora più che mai contro le disuguaglianze sociali, CGT BCN, anche Barcellona ovviamente molto colpita dalla pandemia, di nuovo la CGT Catalunya con un flyer, grazie a tutti gli anonimi, cioè i lavoratori anonimi, i guidatori di autobus, i cleaners, i delivery boys, che fanno andare avanti la società in questo momento e il cui valore nessuno riconosce, e che però hanno un potere contrattuale enorme, per cui si devono organizzare per aumenti salariali e miglioramenti delle condizioni. Vabbè ragazzi, ok, non posso replicare a mio figlio che mi sta malmenando e quindi devo interrompere la trasmissione. Vi abbraccio, buona liberazione, ci sentiamo martedì.